Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Questa settimana nuovo appuntamento, è unico perché insomma martedì abbiamo fatto festa con l'Adico, quindi saluto caramente il presidente Carlo Garofolini che è con noi al telefono. Ciao Carlo. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi nella nostra rubrica Diritti e Rovesci di che cosa parliamo? Siamo a parlare nuovamente di un caso che è capitato all'Adico qualche giorno fa, di una persona che si è rivolta a noi con una problematica che riguarda le solite note problematiche che Adico ha con Ater. Questo perché vogliamo, oltre a raccontare la vicenda, denunciare come con questa ente l'Adico non riesce ad interagire nel modo con cui capita con qualsiasi altro ente, malgrado questi sui giornali continuano a ripetere che sono sempre disponibili e danno sempre risposte e riscontro alle pratiche. Purtroppo ci rendiamo conto come questa ente fatica a interagire con chi solleva certe problematiche, convinti che anche parlandone come facciamo noi oggi, questo sia da stimolo a cercare di migliorarsi tutti quanti nel proprio lavoro e noi così di essere più efficienti nei confronti del socio che si è rivolto a qualche giorno fa a denunciare questa vicenda. Nello specifico cos'è successo? Che un inquilino di un appartamento Ater? Sì, un bel giorno gli arriva un conto da pagare di oltre 11.000 euro, esattamente 11.200 euro. Perché questo? Perché l'inquilino ancora nel 2010 si è trovato con un contratto d'affitto scaduto e malgrado tutte le pressioni, tutte le tentativi che ha fatto affinché gli venisse rinnovarsi il contratto e continuare a pagare, si è trovato di fronte a una situazione in cui aveva un muro. Cioè, questi non chiedevano l'affitto, lui voleva pagare, questo chiedeva un contratto di affitto, questo l'altro non glielo rinnovava per i soliti problemi burocratici che questa azienda ha, fin tanto che un bel giorno ha ricevuto una richiesta di pagamento di 11.200 euro per effetto di indennità di occupazione che l'altro ha pensato bene di calcolargli per il periodo 2010-2014 circa, di cui la persona non è riuscita a pagare in questi anni. Quindi lui non aveva più versato l'affitto perché non riusciva a sapere quant'era il dovuto, insomma, e poi tutto insieme l'ATA gli ha chiesto i soldi. Perché normalmente la prassi vuole che quando una persona occupa un appartamento di cui il contratto non viene rinnovato si dovrebbe teoricamente concordare un'indennità di affitto. Certamente in questo caso la persona ha fatto di tutto per far sì che questo contratto venisse di nuovo rinnovato e ha fatto veramente di tutto per cercare di voler continuare a pagare quello che è un affitto che regolarmente ha sempre pagato. Probabilmente qualcuno ha pensato di semplificarsi la vita un bel giorno mandandogli una richiesta di pagamento di oltre 11.000 euro, ma dobbiamo anche spiegare agli ascoltatori che l'indennità di occupazione normalmente è un'indennità che viene normalmente calcolata anche magari da un giudice anziché dal proprietario dell'inquilino stesso e che tiene conto appunto il periodo che la persona non ha pagato l'affitto, ma normalmente dovrebbe essere un'indennità che viene concordata. In questo caso il signore ha ricevuto 11.000 euro, quindi capiamo che già chi abita negli Ater sicuramente vive in una certa situazione e l'importo credo che potrebbe mettere in difficoltà la maggior parte delle persone di fronte a un pagamento che viene richiesto anche in tempi molto rapidi. Il passo che seguirà a questo cos'è? È cercare di razionalizzare una rateizzazione o piuttosto che? Beh, certamente ora quello che farà il nostro ufficio sarà quella di mandare una diffida legale all'Ater e normalmente si cerca di richiedere urgentemente un incontro per definire anche quelli che sono stati i modi con cui questo ente è arrivata a questa cifra e i conteggi come sono stati, con quale criterio sono stati effettuati. Certamente dobbiamo tener conto della cifra per permettere anche al consumatore in questo caso di riuscire a pagarla, quindi bisognerà verificarla e bisognerà poi decidere le modalità di rientro. Non è anche detto che la persona, in mancanza di un contratto che non gli è stato prestato, non gli è stato fatto, non certamente per volontà sua, potrebbe anche rifiutarsi di pagarla e magari non accettare di scendere a compromessi e quindi rivolgersi direttamente ai giudici perché siano sia il tribunale a quantificare questa indennità. In questo caso, certamente, essendoci la buona disponibilità di tutti, tranne che dell'altro, ci auguriamo che insomma, si possa giungere presto un felice epilogo e che possiamo tutti quanti risolvere questa vicenda e trarre un respiro di sollievo poi alla fine. Capisco, mi stupisce un po', no, questa cosa, cioè tu hai un contratto regolare che scade e ci metti 4 anni e mezzo a rinnovarlo, è una cosa che imbarazza molto, dovrebbe imbarazzare penso l'ater stessa veneziana. Vabbè, staremo a vedere, insomma, teniamo informati anche i nostri ascoltatori di Blu Radio Veneto, ricordiamo che c'è proprio uno sportello dedicato al problema delle locazioni, dei mutui e di queste cose qui negli uffici dell'Adico e ricordo anche il sito associazionedifesaconsumatori.it. Carlo, io ti ringrazio, ti do appuntamento quindi alla prossima settimana. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.